Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13:33 minuti e 28 secondi, state ascoltando Radio 24 e questa Italia in controluce, l'approfondimento quotidiano di Radio 24 sulla cronaca. Terminata la campagna elettorale, torniamo ai problemi veri, quelli rimasti ancora irrisolti nelle città, e con Fabio Pisano torniamo in via Padova a Milano. È la sera del 13 febbraio quando Aziz El Sayed, 19 anni egiziano, muore colpito da una coltellata nella zona di via Padova a Milano. Lungo la via che collega Piazzale Loreto con la periferia nord-est della città, sorge uno dei quartieri a più densa concentrazione di stranieri, di frequente teatro di scontri tra opposte fazioni etniche. E infatti anche la lite che causa la morte di Aziz nasce da una discussione tra un gruppo di nordafricani e uno di sudamericani. Un banale scontro per futili motivi, dirà la polizia, ma che negli immigrati africani che abitano il quartiere fa scattare la scintilla. Via Padova per una notte diventa una bolgia. La folla spacca auto e vetrine per urlare la propria rabbia, mentre nelle vie secondarie e nei vicoli va in scena una vera e propria caccia al sudamericano. Nei giorni successivi la giustizia ufficiale segue per così dire il suo corso. I tre presunti assassini di Aziz, dominicani, vengono identificati e portati a San Vittore. Adel, amico di Aziz, finisce nel CIE di via Corelli. Per i disordini vengono fermate 4 persone. Nel frattempo il comune di Milano decide che la situazione di via Padova non è più tollerabile e a metà marzo approva delle nuove ordinanze riguardanti la zona. Oltre a quella che obbliga i proprietari di appartamenti e i locatori a consegnare al comando dei vigili contratti e documenti degli inquilini, c'è quella, contestatissima, che instaura nella zona una sorta di coprifuoco. Centri massaggi chiusi entro le 20, phone center e internet point 2 ore più tardi, bar e ristoranti entro la mezzanotte. Un taglio di quasi 2 ore per ogni attività che, secondo il sindaco Moratti, riporterà la situazione alla normalità. Ma non tutti i frequentatori di via Padova ne sono convinti. Ma sono o grida manzoniane o un antipasto di fascismo, cioè inizia a essere molto preoccupante la violazione delle libertà individuali e dell'habeas corpus portata avanti da una sindaca che si dice liberale ma chiede perquisizioni senza mandato. Bisogna andare a prendere le persone che comunque vanno prese, non bisogna penalizzare tutti quanti, punto primo. Punto secondo, comunque questo è un circolo, quindi cioè persone pericolose non ne vengono, è riservato ai soci e a persone che lo conoscono e non, cioè, non c'entra niente col coprifuoco, infatti io sono completamente in disaccordo. Sembra che la Moratti, che è sotto un fuoco incrociato, si stia spostando sulle posizioni della Lega. Cioè i rastrellamenti sono quanto ha chiesto Salvini, quanto hanno chiesto Calderoli, e lei li sta applicando. Sono accuse precise e pesanti. Sono le voci della maggioranza dei ragazzi che circolavano per via Padova il 25 marzo, nella prima notte di vigore del nuovo provvedimento. Anche se non manca, pure tra i giovanissimi, chi è soddisfatto delle decisioni del comune. Secondo me va bene così, perché in fondo non ci sono pericoli per i gestori. E anche meglio così, secondo me, perché tante volte con le risse che ci sono state qua in via Padova ci sono passati tutti i gestori e più il controllo che c'è della polizia che fanno avanti e indietro. I proprietari dello spazio Ligera, enoteca in stile anni 70 di via Padova gestita da italiani, hanno deciso per il 25 marzo addirittura una notte di disobbedienza civile, tenendo le saracinesche alzate anche oltre la fatidica mezzanotte. Il perché lo spiega Riccardo, uno dei gestori. Noi non accettiamo questa ordinanza perché riteniamo che chiudere dei locali anticipandone l'orario normale sia un provvedimento che non risolve nessun problema, ma semmai va ad acuire una situazione che potrebbe effettivamente essere tesa, anche se poi di fatto non lo è così tanto. Speriamo di aver mandato e lanciato un segnale forte e importante alla giunta comunale, perché non chiediamo di ritirare immediatamente l'ordinanza, ma quantomeno di sospenderne gli effetti e magari valutare con più attenzione quali provvedimenti prendere. Nella prima notte di coprifuoco, la polizia locale ha comminato 18 sanzioni per un totale di quasi 9.000 euro. È presto per capire se i provvedimenti avranno successo nel mantenimento dell'ordine pubblico. Di certo, a chi abita e lavora in via Padova, resta la sensazione di una decisione presa sull'onda dei fatti di cronaca, senza conoscere a fondo qual è la reale situazione del quartiere. Italia in controluce. Quello di Carlin Petrini da Bra in provincia di Cuneo è un sogno che viene da lontano. Realizzare, così lui sognava nel lontano 1977, una cultura alternativa dell'alimentazione. E oggi quel sogno si chiama Slow Food. Cristina Carpinelli. Sapore e sapere. E non c'è dubbio che se io ho più conoscenza riesco ad assaporare meglio. Mangiare senza sapere che cosa c'è dietro, da dove viene quel prodotto, quale chi l'ha prodotto, con quale sforzo è stato fatto, magari in che contesto è stato trasformato, eccetera. Non dà valore al cibo, diventa una specie di carburante. Noi non siamo una macchina, noi siamo qualcosa di più complesso. Il sapere è molto importante per dare sapore alla vita. È il 1986. A Bra, in Piemonte, Carlo Petrini e un gruppo di amici danno vita a Slow Food. I ragazzini fanno la fila in Italia per entrare nel mondo di plastica, di hamburger e patatine fritte. All'inizio sono in molti a credere che Slow Food sia solo un antagonista del fast food, ma ben presto si capirà che la storia è un'altra. Nel 1989 l'associazione di Petrini diventa un'organizzazione internazionale. I prodotti difesi con la costituzione di presidi, un tam-tam che si muove tra ristoranti, mercati, orti, biblioteche. Petrini diventa il Carlin. E Carlin lo chiamano anche i pescatori del presidio della Masculina da Maggia, nel Golfo di Catania, che all'alba pescano ancora con le lunghe reti a maglie fitte. Oggi ci sono 100.000 persone iscritte e sedi aperte in tutta Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito. Questo è Carlo Petrini. Forse proprio perché il nostro movimento ha intercettato delle istanze giuste, ha trovato migliaia di persone che con un impegno volontario si stanno impegnando in ogni angolo del mondo. In tutti questi anni Slow Food ha introdotto due concetti chiave: essere fortemente orgogliosi delle proprie radici e dunque dei prodotti tipici della terra e difendere questa unicità. Quello che il sistema industriale aveva fatto, e cioè far vergognare i contadini delle loro tradizioni, Slow Food lo recupera e fa diventare tutto questo orgoglio. L'orgoglio è anche coltivare con metodi naturali la terra. La situazione per quello che riguarda la fertilità dei suoli è drammatica. Se noi continuiamo a mettere della chimica sul terreno, alla fine l'humus, proprio la ricchezza dei suoli, si impoverisce in maniera tale che ci troveremo davanti a un disastro annunciato. Vuol dire che anche i consumatori avvertiranno sempre di più queste esigenze e saranno disposti anche a spendere qualcosa in più. Guai se il biologico diventasse un prodotto di elite o di nicchia. Guai, sarebbe una grande iattura. Invece io penso che è nostro dovere evitare lo spreco enorme di cibo che c'è, e riducendo lo spreco avere l'opportunità di avere più qualità e pagare il giusto ai contadini. Voi quanti prodotti tipici siete riusciti a difendere in questi anni? Beh, in Italia oltre 250. Sto parlando di prodotti molti in via di estinzione. Siamo molto orgogliosi di questa battaglia, anche perché un patrimonio straordinario che gli altri paesi ci invidiano e che rischiava di scomparire proprio perché molti di questi prodotti non erano più competitivi dal punto di vista commerciale. Ma delle volte difendere una razza debole è un modo per investire sul futuro. Difendere solo le specie forti, e alla fine ci troviamo più poveri. La cosa più sorprendente della storia di Slow Food è anche il fatto che esista anche una costola americana del movimento, no? Ci sono oltre 40.000 associati. Che cosa si aspettano gli americani da Slow Food e chi sono questi associati? Il nostro movimento negli Stati Uniti è stato all'avanguardia nella costruzione dei mercati contadini. In America si avverte la drammaticità di un sistema alimentare che ha generato una pandemia che ha costi altissimi e che è l'obesità, in parte anche il diabete, determinata da cattiva alimentazione. Per cui Slow Food viene intercettato come anche un soggetto che propone uno stile di vita